www.radioticino.it. Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Prima volta che ti chiamano asino gli dai un pugno sul naso, la seconda volta che ti chiamano asino gli dici stronzo, ma la terza volta che ti chiamano asino, beh, forse è ora che ti vai a comprare una soma. Chiedo quindi ai politici italiani, siate responsabili, decidete per la legalizzazione. Ciò significa sottrarre denaro al terrorismo islamico, sottrarre denaro alle mafie, abbassare i consumi. Legalizzate il furto, rendetelo legale, perché vedrete che le rapine e gli scippi diminuiranno. Questo è il ragionamento non solo di Saviano. Basta un'ottantina di parlamentari che non hanno firmato che siano pronti a votare a favore. Quindi non è impossibile, non mi sfugge che c'è un fronte contrario molto robusto. Io credo che noi abbiamo dalla parte però buone ragioni. Si realizza una sorta di legalizzazione dello spaccio, perché avremo in casa che ogni persona avrà i suoi 15 grammi lordi e possiamo facilmente immaginare il coca party o comunque il droga party con che tipo di effetti potrebbe avere. Ah, ragazzi, dispiace rovinare la mitica Stand By Me con le solite dichiarazioni in cui non si fa un passo avanti, un passo indietro, un passo di lato, un passo, il passo del cavallo, il passo del giaguaro, il passo e poi tutto rinviato. Sulla legge per la legalizzazione, per carità, della marijuana, ne abbiamo parlato anche qui, ne parleremo, ma mi prende uno sconforto sentire questi dibattiti. Si legalizzano gli spacci, si legalizzano i coca party, cose come direbbe il mitico Scoglio, lo ricordate, l'allenatore, grande allenatore del Genoa soprattutto, ad minchiam. Cari ascoltatori, questa è 24 mattino, ci siamo ancora qualche giorno, poi vi molliamo al caldo agostano, alle ferie. Saluto tutti i nostri amici che ci ascoltano da Bolzano, da Piazza Maciacchini, che chi non lo sapesse è una piazza a Milano, Luciano. Un ascoltatore che mi urla come faremo per un mese. Benissimo, benissimo, benissimo, tranquilli, benissimo. Saluto Maurizio da Vilmezzano. Attenzione, Lorenzo Nespoli, iniziano Vilmezzano. Grazie, vorrei sapere. Buongiorno da Pontassieve, Marco. Vilmezzano, mi fai un controllino sul computerino? Dal videino? Cosa mi esce? Vilmezzano, la solita perculata di Verona. Vilmezzano, Verona. Allora, Pierluigi da San Severo di Foggia è pronto con noi, anche Roberto di Badia Polesine è presente, anche per lui è venerdì the last day, per noi no. Sono le 6:32 minuti. Allora signori, dobbiamo abituarci a vivere così, una media di 3 allarmi bomba al giorno. Questo succede, d'altronde l'abbiamo visto, l'ISIS è sbarcato in Germania di fatto in maniera totale con questo attentatore che fortunatamente non è riuscito a colpire non se stesso ad Ansbach e che aveva fatto giuramento all'ISIS. Ora ovviamente la Merkel è sotto il fuoco di fila di questioni sulla questione dell'apertura delle porte aperte ai profughi. Questo per esempio era uno che da un anno era lì, venuto dalla Siria e chiedeva asilo politico. Ma noi abbiamo per l'ultima volta, lo sbrandiamo così, è contentissimo il nostro Marione Adinolfi, un uomo che è diventato di un'arroganza incredibile. Pallone recuperato. Guardate, ancora da Higuain. Cos'è? In area di rigore, Higuain, ecco, questo è il simbolo Higuain della Juve, l'arroganza dei potenti. Perché non vi comprate direttamente la Champions League? Compratevela. Quanto può costare? 27 fantastrilioni? Tesoro, ti faccio notare che la Juve fa tutto questo sostanzialmente a costo zero. Quindi... A costo zero? La cessione di Pogba sono 120 milioni, Morata sono 30 milioni, fatti i conti, vedrai la Juve ha fatto una squadra con... Pjanic, Higuain, Dybala sostanzialmente a costo zero. Senti qua l'arroganza di Adinolfi due giorni fa. Buffon, Barzagli, vabbè, ha messo tutta la formazione della Juve, Pjanic, Dybala, Higuain e sono sei. E sono sei di seguito. Io me lo sono tenuto. Il 23 luglio Adinolfi ha detto che vinceranno il sesto scudetto consecutivo. Ma tienilo da conto, mi raccomando. Sono sei anni che tieni da conto. Sì. Ce l'ho qua. Ti piace o sole mio? Sai che ieri qua c'era Giorgino De Luca, che lavora a tutti i convocati, ha bruciato la figurina di Higuain. L'ha bruciata. È di Napoli, lui, ovviamente. È di Napoli. L'ha bruciata e l'ha buttata. La grande solidarietà agli amici napoletani e la loro sofferenza di questo. Mamma mia ragazzi, che arroganza, che comprare Higuain proprio è il gesto più arrogante che solo la Juve potrebbe non fare. Non comprare, insomma, pagare la clausola rescissoria è ancora più divertente. Non comprare, gli fai la trattativa, telefoni a uno e dici guarda ti pago 90 milioni, ciao grazie, arrivederci, giocate con Gabbiatini, grazie, saluti. Un'arroganza mostruosa. Sei un mostro. Forza allora, Napoli. Napoli. Sei un mostro. Allora, insieme a te, caro Mario, voglio salutare con grande affetto Flavia Perina. Buongiorno. Buongiorno. Ma io non sono totalmente impreparata su questo argomento. No, infatti, io non ho mai. Continuate voi. Io sto a sentire. Non ho mai capito. Non ho mai capito. Infatti, Flavia Perina segue un po' il calcio oppure no? No, lo seguo. Il calcio della Roma, tutto il resto si muove intorno. Va bene. Comunque, insomma, come costume mi piacciono le curve, mi piacciono i problemi del calcio. Sì. Ma questa sei roba al corrente, mercato, no? Sei al corrente dell'arroganza corrente, della Juve. Sono al corrente, la totale arroganza. Quelli grossi si dice anche che sono quelli che quando cascano non si fanno più male. Esatto. Avremo un altro campionato con tutta Italia che si sarà contro la Juve. Va bene. Punteremo al secondo posto tutti quanti, ecco, non in Milan sicuramente, noi al settimo, all'ottavo, però va bene così. Ognuno a livello suo. Allora, apriamo il Parlamento, forza, perché mancano tre giorni alle ferie, ma il Parlamento apre. Quindi se mai ci vediamo più tardi. Il ministro Boschi è con noi, ovviamente, o meglio, arriva più tardi, dopo il caffè, si sa. Ci sono anche alcune cose che vi hanno visto protagonisti, per esempio, dai, Flavia, voglio subito, perché ieri hai twittato in maniera molto dura nei confronti di Salvini, Salvini che si è presentato in una di quelle feste paesane della Lega in cui si fanno qualche tra un proclama e l'altro, tra un singulto e l'altro. Salvini, eccolo qua, dai, facciamolo sentire, che così si è presentato sul palco, c'era una bambola gonfiabile che Salvini ha definito così. C'è una sosia della Boldrini qua sul palco. battutona. Vorrei fare un appello agli ascoltatori che votano per la Lega, che perché non tornano a quell'epoca là quando si mettevano quegli elmi con le corna, con i carri armati di cartone, che tutto sommato erano delle cose molto folcloristiche, però meglio. No, meglio, sì, perché le bambole gonfiabili alle donne dà fastidio vedere paragonate. Sì, non è un bel paragone, non è un bel paragone. Quindi io vi dico, tornate agli elmi celtici, tornate ai carri armati di cartone, se proprio volete fare delle cose folcloristiche, goliardiche, come piace a voi, ma lasciate perdere le bambole gonfiabili e diciamo questo tipo di caricatura della donna, perché non va bene. Non va bene, no, non va bene. No. Non so, Marione, caso chiuso, ma sì, ma cioè, per carità, ma non buttiamola sempre in politica. Qui è come l'altro giorno quando Di Maio ha detto la lobby dei malati di cancro. Cioè, lì non è questione politica. Quando vengono dette delle minchiate, punto, vengono dette delle minchiate. Adesso chi può pensare, anche se vota Lega, che sia piacevole? Ma pensate se paragonassero vostra moglie, voi che votate Lega, uomini, a una bambola gonfiabile. Non so, sareste contenti? Io credo proprio di no. Comunque vostra figlia anche, perché le mogli, gli italiani, insomma, moglie anche e figlia, no. Anche un po' la cugina, anche la cugina. La figlia e la mamma. È la mamma. Esatto, no? la moglie magari che dice Flavia, la moglie ogni tanto magari. Ecco, la mamma e la figlia con la mamma e figlia, giusto. Marione, tu ti farebbe piacere? Non credo. A Boniver, Bonazza, la Lega c'era duro, cioè la Lega pure era uguale, non è che mi è sembrata una grande digressione rispetto alla tradizione leghista. E apro parentesi, contro Salvini viene detto francamente di tutto, ma di tutto, cioè, sì. Quando è morto poche settimane fa, il povero Buonanno, gli hanno scritto di tutto, sì. A cadavere caldo, cioè, mi sembra che l'imbarbarimento sia... E hanno sbagliato. Io sono il primo quando dicevano di buon anno a insultare, io ho insultato personalmente quelli che godevano della morte di un uomo. Cioè, le cose scritte in maniera terrificante, non lo so, sono tutte stupidaggini, mi sembrano molto poco rilevanti. Ovviamente servono a fare una paginata di giornale in queste giornate un po' così. Però insomma, non l'ho vista come una cosa così terrificante. Eccola, capisci Flavia, basta, niente. Questi uomini, la tradizione della Lega. Se siete uomini, se avete il cervello così, poi ha voglia di dire, no? Ha voglia di dire, abbaccagliate tanto per come i musulmani trattano le donne. Ma cose allora, francamente. Dai, su questo un po' ha ragione, dai Mario, ha ragione Flavia, siamo un po' uomini, siamo un po'. La bambola gonfiabile, no, dai. D'accordo. Su, dai, vabbè. Dai, archiviamola questa, la bambola gonfiabile, archiviamola lì. No, come dico io da qualche giorno, mala tempora currunt. Qui adesso sulla questione dell'ISIS, la Germania, eccetera, bisognerà fare una riflessione, Mario. Dovrà fare una riflessione la Merkel, che forse questa politica delle porte aperte almeno fino adesso non ha portato benissimo. Cioè, in Germania si riflette molto su questa cosa, è molto sulla graticola lei. Ma io credo che abbiamo, cioè, il problema qual è? Il problema è le porte aperte, cioè questo è il motivo per cui se lo chiedono, no, se lo chiedono ce lo si chiede. È chiaro che la Germania ha una concentrazione di presenza islamica molto forte, la Francia ha una concentrazione di presenza islamica molto forte, tradizionale e precedente, perché questo va detto, all'afflusso migratorio. A Nizza ha fatto 84 morti un residente nato in Tunisia, ma era un residente che era residente lì da 10 anni. Cioè, non credo che la nostra questione sia ora la riflessione intorno all'emergenza attuale provoca il terrorismo attuale, perché non è vero, che non è un'analisi corretta. La strage del McDonald's è stata fatta da un iraniano che era lì presente, è nato in Germania. Cioè, non lo so, insomma, quello è un caso che c'è sicuramente. Io sono convintissimo che rispetto ai flussi migratori bisogna essere molto attenti, e la distinzione profugo e uno che viene perché è povero non l'ho mai capita molto bene, per cui lì il problema è gestire il flusso migratorio, non la distinzione tra profugo e migrante per fame, diciamo così. Poi dopodiché sappiamo che l'assalto è di un'altra natura. L'assalto è di natura islamica, non di natura del profugo siriano. c'è un problema religioso grande come una casa. Se uno non vuole affrontare quel problema religioso, non capisce di cosa stiamo parlando e che sta fare. Vedi, Flavia, l'altra volta ne avevamo parlato su questo. Flavia Perina ha un'idea ben, ben diversa. Insomma, tanto io osservo che uno dei si è completamente dimenticato il tema dell'ISIS vera, del Daesh vero, di quella che sta sul territorio. Forse dovremmo porci il problema di sconfiggere, di cominciare con lo sconfiggere quella che è una realtà ben presente militarmente, certamente, perché poi tutti questi fenomeni sono collegati in qualche modo, sono stati rianimati, riaccesi da quel tipo di presenza a cavallo tra la Siria e l'Iraq. Per circa un anno si è occupati molto di questa cosa, adesso invece l'attenzione si è totalmente spostata sul tema immigrazione, come se non fosse... cioè l'ISIS vera ha fatto 80 morti in un mercato di Baghdad, è una piccola forza, occupa 3 o 4 città. L'Occidente, quando ci si è messo, ha tirato giù Saddam in 2 mesi, ha sdraiato la Serbia di Milosevic, che era un paese vero e proprio, non era una banda di tagliatori. Però militarmente dicono che lì ha perso terreno l'ISIS, ha perso terreno e viene lasciata lì, perché militarmente non c'è convenienza di nessuno, perché ci sono rapporti ambigui dell'ISIS con paesi molto potenti, a cominciare quelli del Golfo. Gli americani non sono determinati a chiudere questa partita, nessuno sa che cosa vuole fare Erdogan, la posizione della Turchia è un altro punto interrogativo. Quindi io direi, penso che l'attenzione dell'Europa dovrebbe essere puntata innanzitutto su queste grandi questioni geopolitiche, che sono la causa dell'immigrazione, perché i siriani in Europa ci stanno perché sono scappati da una guerra e magari tornerebbero anche nel loro paese a ricostruirlo se quella guerra venisse in qualche modo stroncata. Vabbè, invece, capito Marione, però che facciamo? Facciamo una guerra di religione? Cioè andiamo a rifare le crociate? Non è una guerra di religione, è chiaro, però il problema per Mare di Nolfi... La religione è un alibi. Vabbè. Ma altri musulmani, cioè su quel territorio loro non è che ammazzano i cristiani, non ci stanno i cristiani, ammazzano altri musulmani. Non è un alibi, Flavia, non è un alibi. Il tema è il tema religioso. Questa è una guerra intra-islamica per l'affermazione di un'egemonia in un mondo di 1 miliardo di persone che non ha una gerarchia religiosa costruita, in cui il potere si racchiude intorno ai cosiddetti califfi e imam. Ora il califfo al-Baghdadi sta cercando di diventare egemone rispetto a un mondo di 1 miliardo di persone e usa queste azioni come azioni propagandistiche per attirare consenso in un mondo dove, diciamolo con chiarezza, un islamico che vive nel mondo del 1 miliardo di musulmani, non ragioniamo con l'ottica occidentalocentrica, quel musulmano lì non piange per le vittime di Nizza. Dobbiamo averla chiara questa cosa. No, quello magari piange per le vittime di Baghdad, neanche per quelle di Baghdad, non piange per nessuno. I musulmani non piangono. Hanno una, diciamo così, cultura che da 14 secoli assalta l'Europa per ragioni sempre identiche, profonde, inside nella dimensione religiosa islamica, perché c'è un'infinita guerra interna all'Islam stesso per affermare la propria egemonia. Se noi non comprendiamo questa dinamica, se non comprendiamo quello che spiegò Papa Ratzinger, che disse in un discorso a Ratisbona, che lo espose a una condanna, una condanna globale, ma era l'unico che aveva capito quello che stava succedendo, che o l'Islam fa in qualche modo i patti con la modernità e capisce che cos'è la modernità, o la natura radice violenta inevitabilmente si espande, perché è insita nel libro stesso, nel Corano stesso. Quindi la soluzione tua è dichiarare guerra a 1,5 miliardi di musulmani. La soluzione mia è rafforzare in maniera decisiva chi nel mondo musulmano è alternativo al Baghdadi. Insomma, l'illuminismo musulmano. Arriverà. Lo lasciamo lì a fare c'è un tema geopolitico evidente oltre alla religione. La Mogherini che va a fare la guerra a non si sa chi, perché questo è il problema, perché questo è il problema, perché per fare la guerra devi avere un soggetto a cui fare la guerra. La guerra la possono fare solo l'America. l'America, l'America con una coalizione. Allora, dobbiamo dare le informazioni sul traffico, perché mentre si parla di queste cose importanti, in Italia invece i giornali, che parlano anche di questo, poi si concentrano a parte sulla legalizzazione della marijuana, che in realtà è un tema molto interessante, è un tema anche importante, e poi gli stipendi della RAI, ma insomma, poi devo chiedere conto anche a Mariola Dinolfi di uno strano tweet, che non è quello legato alla Juve. Tra poco, Alino, dai, fanno il balabio, manda il traffico. Tra parentesi, tra virgolette, ma scusate un attimo, anche il nostro primo ministro si è fatto il suo bel golpe, sbaglio o sta governando senza essere stato eletto? Renzi, sei proprio un bel golpino, eh. Ma se poi non c'è Milan alla mattina, chi li legge i giornali? Dai, sci! Aboliamo queste regioni. Sono un costo folle e non servono a niente. E un Milan Maria, sono una creatura più lettino. L'altra sera andai a trovare un mio amico a casa, si vede un pochino, poi arriva il suo figliolo, al suo babbo gli casca il portafoglio. Il portafoglio si apre nel mezzo e c'è una fotografia. A destra c'è di Pallettino e a sinistra c'è di Gianni Rivera. E questo gli dice, il suo figliolo dice, babbo, chi sono? Dice, mi sono un frate normale. Invece quest'altro fa 6 anni lauri. Ciao! Vabbè, Anacleto, però o metti WhatsApp e ci mandi degli audio buoni, non si ne capisce più niente di quello che dici, perché tutte le scienziate così, Anacleto. Vabbè, va bene tutto, ma insomma, comunque è la leggenda di Gianni Rivera. Ma, tra l'altro, Anacleto, ti devo dire una verità, ero in Abruzzo con Gianni Rivera qualche giorno fa e lui l'ha raccontata proprio, è vera questa cosa, è vera, una leggenda, non lo so, di... Tu la sapevi, Mariola Dinolfi, delle due... Sono stanchi sti radioascoltatori, pure loro, cioè non ce la fanno più mai, sono spiatati pure loro. Che ce l'hai sulla... ce l'hai con la mia segreteria telefonica. Ce l'hai con la mia segreteria telefonica. Perché Flavia Perina, lui ce l'ha con i miei ascoltatori. Ce l'ha con i miei ascoltatori. Ah sì, ma tu lo invidi apposta. Allora. Ma certo, ma lui... I tuoi ascoltatori non vedono l'ora di litigare con qualcuno. Ma è chiaro, ma è chiaro. Benissimo, certo. Allora, eccolo là. Pubblico di merda! No. Pubblico di merda! Questo è un po' il grido di Mariola Dinolfi, che però io lo devo ringraziare perché fece una cosa veramente rivoluzionaria 2 anni fa ormai. Non so se ti chiamano ancora, Marione, ma sai come che, no? Sai che le conseguenze. Flavia ancora lo chiamano perché 2 anni fa decise di mettere il numero di dire il numero di telefono di cellulare suo qui. Qui in onda. Sì, me lo ricordo perfettamente, un atto veramente temerario. Con la gente. Provatelo l'affetto della gente, dai, è una cosa divertente. Provatelo l'affetto. L'abbraccio del pubblico. Vai Milan, dai. Vai. Un po' che vai in vacanza. No, perché poi dopo, cioè, so già che mia moglie dopo un giorno mi sbatte fuori di casa, la centesima telefonata. Allora, il tweet di Mario Adinolfi, cioè, effettivamente Rossella da Roma mi fa questo, mi scrive poco fa e mi dice, ma chiedi conto di questo tweet. Due giorni fa, cosa hai scritto? Eccolo qua. Avrei voluto, chiedo scusa per gli insulti, ma questo parla così a Dinolfi ogni tanto. Avrei voluto essere il ribelle di una società bigotta, ma in una società di troie rotte in culo, l'unica ribellione possibile è essere bigotti. Ma a chi ti riferivi? A proposito di bigotti. Che non si capisce. No, quale parola non hai capito? No, ho capito, ma a chi ti riferivi? A chi pensavi quando hai scritto questo tweet? Questo tweet l'ho scritto perché il giorno 22 luglio era il 15° anniversario della morte di Indro Montanelli. Indro Montanelli scrisse questa bellissima frase. Disse: ero nato per essere il ribelle di una società ordinata, mi hanno dato una società disordinata e l'unico modo di essere ribelle era stare con i carabinieri. Sì, tu l'hai trovata una frase. Tu l'hai un attimo modificata, diciamo. L'ho adeguata ai tempi. Ecco appunto, e a chi ti riferivi quando hai pensato a questi due termini? È un'oggettiva con la società, avevo davanti un po' di, diciamo, fotografie, cose, non ce lo dici. Immagini. Non ce lo dici. Stavi su YouPorn. C'erano fotografie e immagini che avevi sotto occhio. Stavi su YouPorn, non stavo è male. Davanti alla prima unione gay, era divertente. Era l'unione. qua diventa grave l'accusa. Diventa politica la questione. Ah, Flavia, l'ha presa, l'ha toccata piano, come si suol dire. Questa. Sì, sì, no, beh, però a questo punto non ho capito per che cosa c'entra il riferimento alle troie. Scusami, potevi riferirti solo alla seconda categoria? No, perché non voglio essere, io non ho un problema con gli omosessuali, io trovo che ci sia un problema oggettivo di incredibile confusione che a me continuo a considerare non utile per la nostra c'è società. Un problema col sesso, ma c'è un problema col sesso, vanno bene le bambole gonfiabili, ma queste altre cose no. Vabbè, comunque vabbè. Montanelli non si sarebbe riconosciuto nell'espressione, no, credo. Quello, Montanelli ha detto quello si vedeva sempre il punto di penna, sì, guarda, però quel diciamo effettivamente temo che non li avrebbe usati. Effettivamente è una citazione con slittamento della frizione. Sì, ecco, sì, diciamo sì, devi citare frasi di Montanelli che non cito per farsi capire quanto fosse molto più in là di me, diciamo, per certi versi. E forse non sarebbe stato neanche più Twitter Montanelli, sì, perché era anche molto aristocratico, diciamo. Ma come no? Viveva in controcorrente, che erano i tweet 35 anni fa. I suoi controcorrente erano... E vabbè, detto Twitter non ce l'aveva, Flavia, te l'ho sta notizia, insomma. Non me lo immagino, io vabbè, però è un immaginario. Vabbè, vabbè, ma comunque, insomma, ci ha svelato il mistero, il buon Mario Di Nolfi, a chi pensava. Guardali qua quanti bei stipendioni, pensate solo questo, cari amici, giusto per non fare, non bisogna avere l'invidia per chi guadagna di più, questo io lo dico sempre, mai invidia sociale, ma chi se ne frega se uno guadagna, chi se ne frega se a Di Nolfi guadagna 10 milioni di euro l'anno, non importa. No, aspetta, però un attimo, importa se Anna La Rosa prende i soldi pubblici stipendio della Merkel. Ecco, questa è una questione. No. Questa è una questione, sono soldi pubblici. Non è no. Sociale, qui ci fate due palle così per l'8 per 1000 ai poveri preti, 110.000 preti che lavorano. La Rai spende 1 miliardo di denaro pubblico per i suoi dipendenti, secondo me per i suoi 13.000 dipendenti. Sì. È un po' tanto. No, ma infatti lo stipendio di Angela Merkel a Anna La Rosa per non fargli fare un cazzo, ora francamente... Anna La Rosa, ex direttore del Parlamento, in realtà ti faccio notare che dichiara oggi al Fatto l'ultimo anno ho seguito Hillary Clinton, ho smaltito un anno di ferie. No, ragazzi, manco questo si può dire adesso. Ma ci sono 250.000 canoni della RAI da pagare per stipendiare 94 persone in RAI, cara Flavia. Io penso tra l'altro che questa cosa qua non sia in qualche modo legale, perché io ricordo che all'epoca del governo Monti fu votata una legge, quindi una legge che dovrebbe impegnare tutti gli enti pubblici, che diceva che non potevano essere conferiti stipendi superiori a 240.000 euro. Pare e sia fu anche molto contestata. Pare sia saltata. Beh, non è quella legge esiste, ma quella esatto. Legge esiste, e qua non parliamo di bonus, parliamo di stipendi. E comunque guarda di qua gli stipendi, 2,40, 2,40, ecco, 2,20, 2,28. Io penso che il giusto richiamo andrebbe fatto su questo punto. No? Ma sono tutti appena sotto, la maggior parte, 240, 212, 220, 223. Ce ne sono anche molti sopra dall'evento. Alcuni sopra. Soprattutto ci sono quelli che non fanno niente, non hanno più un incarico. Carmen la sorella l'ha detto per prima, dice non ho un incarico in Rai. Meocci, ex direttore generale, lì dice ma che fa, gli chiede il Fatto, questo è lo spoiling system all'italiana, no? Arrivano i nuovi governi, i nuovi partiti, vengono cambiati i blocchi di classi dirigenti, sì, giornalisti eccetera, però poi quelli che avanzano bisogna continuare a pagarli, ma ragazzi, nel ma senso perché? Che hanno un contratto in tasca serio di cui penso questo CDA della RAI e il presidente e l'amministratore delegato dovranno render conto. Non chiaro, è il modo di fare nelle aziende normali, nelle aziende normali le persone, soprattutto quelle con un alto stipendio, vengono utilizzate finché restano in azienda. Guarda di qua, Ilaria Dallatana 300.000, Andreatta 272, guarda qua Mario Di Nolfi 248, No, non c'è Mario Di Nolfi. Francesco Merlo 230.000. Sì, 230. Per la consulenza. Sì. Ieri si è arrabbiato, sai che ieri ho fatto arrabbiare Francesco Merlo? Ma come? Ieri, purissimo merda. No, ieri ho scritto, ho preso un po' in giro dicendo ci sono due pagine su Twitter, su Repubblica, di Merlo che cerca i Pokémon coi figli, ve lo giuro. Si è arrabbiato, mi ha risposto con un tweet. Qual è il problema? L'autore non va? L'argomento è futile? E sei arrabbiato tantissimo. Sono per malosi sti ragazzi. E non ho citato i 230.000 euro di... E non gli hai citato i 230.000. Tra l'altro ieri Repubblica ricordava tutte le consulenze Rai tranne una. Capito? Porca miseria. Quella di Merlo. E poi ha cominciato a scrivere. No, ve lo giuro, ti faccio la foto, le citava tutte tranne una. Vabbè, colpa del proto si dice in queste occasioni, colpa, no? Del, colpa proto. Del proto. Andate è a spiegare. Una riga. Andate a spiegare agli ascoltatori cos'è il proto, cos'era forse il proto nei giornali. Spiegatemi cos'è il proto, cari ascoltatori. Vediamo se avete questa cultura tipografica, il proto. Intanto io vi saluto. Flavia Perina e Mario Adinolfi, che ha già vinto il sesto scudetto. Ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo qui in questa ultima settimana di 24 mattino, poi andremo in ferie dal 29 di luglio, ma la programmazione di Radio 24 continuerà, Allora, siamo pronti a leggere i quotidiani di oggi? Forza! Oh, non sanno di che parlare i giornali, Siamo a martedì 26 luglio. E intanto i titoli del Sole 24 Ore, cominciamo da questo. Monte Paschi Siena, soluzione in CDA, ma la BCE prende tempo. La attesa anche per gli stress test che ci saranno venerdì e la possibilità del salvataggio di Monte Paschi. Poi, per quel che riguarda gli altri quotidiani, l'apertura è dedicata soprattutto alla Germania. Kamikaze in nome dell'ISIS è il titolo di prima pagina del Corriere della Sera. Siriano aveva problemi psichici, questo è il profilo di colui che si è fatto saltare in aria ad Ansbach. Attacco alla Germania, il kamikaze è un profugo, era un soldato dell'ISIS, questo è il titolo di Repubblica in prima pagina. Mentre per la Stampa, attacco ISIS, la Germania ha paura. Il Messaggero, Germania, lo sbarco dell'ISIS. Mentre per il Giornale, terrorismo psicologico, falsa bomba, blocca Milano. Bisognerà convivere anche con questo. C'è invece chi la mette come Libero sul tema la cannabis, ma vissuta così, il paese crolla e loro pensano alle droghe. Il titolo di prima pagina, politici allucinati. Ed è anche Avvenire che fa una scelta simile, perché il titolo è questo: la priorità del paese ora diventa il fumo. In aula alla Camera la legalizzazione della cannabis. Poi, per il Fatto Quotidiano, e da qui partiamo, Rai 250.000 pagano il canone per mantenere 94 paperoni. Effettivamente questa cifra, nel giorno in cui ieri ufficialmente la RAI ha messo online tutte le spese dei dipendenti, soprattutto quelli sopra i 200.000 euro, le consulenze sopra gli 80.000 euro, ebbene questa cifra fa impressione. Cioè vedere che serve il pagamento di 250.000 canoni della RAI per pagare gli stipendi dei 94 più pagati in RAI. Ecco la lista degli stipendi online. Beh, si sapeva già da ieri, visto che la rete aveva anticipato tutti gli stipendi di cui abbiamo parlato, quindi li trovate tutti snocciolati sui giornali. Vi segnalo, Marco Mele sul Sole 24 Ore fa un paragone tra quello che succede alla RAI e quello che succede in Europa, nelle altre TV pubbliche. TV europee fra trasparenza e tutela di mercato. Allora, interessante a dire, beh, la trasparenza ci vorrebbe, c'è ovunque. Non è vero che c'è ovunque. Come racconta Marco Mele, all'estero solo la BBC dal 2009 pubblica gli stipendi lordi annui e anche tutte le spese rimborsate dell'azienda, i regali, gli inviti ricevuti da ciascun dirigente, devono essere tutti dichiarati, anche se solo a scopo benefico. Pensate che i rimborsi del direttore generale della BBC, che viaggia quasi sempre in treno, fa sapere Marco Melle sul Sole, e ha speso, per esempio, lo sanno tutti i contribuenti perché è pubblico, 19 sterline tra Londra e Birmingham il 26 febbraio di quest'anno. Non solo, devono essere dichiarati i regali ricevuti, gli inviti, per esempio i biglietti ricevuti in omaggio per l'opera e il teatro da parte di Tony Hall, che è appunto lui il direttore generale. E ancora, il direttore generale della BBC, come ciascun manager, deve dichiarare tutti gli incarichi esterni alla televisione pubblica, come per esempio la presenza nell'Advisory Council della London Philharmonic Orchestra. Tutto in massima trasparenza, ma non è ovunque così. Le altre TV degli altri paesi europei, come ha rilevato 3 anni fa una ricerca dell'Organismo dei Servizi Pubblici dell'Europa Allargata, preferiscono evitare una politica di trasparenza sui compensi di manager e giornalisti, in quanto, essendo in competizione sul mercato pubblicitario, al contrario della BBC, temono di essere indebolite nei confronti dei concorrenti privati. Quindi non è vero che c'è una trasparenza totale, se non alla BBC, anche negli altri paesi europei. Ovviamente scatta un po' l'effetto invidia sociale, questo c'è, scatta l'effetto anche un po' gogna con le foto, gli stipendi di tutti, scatta ovviamente, come ci ha detto ieri un ascoltatore, anche forse una legittima rabbia a vedere stipendi di 200, 214.000, 224.000, 300.000 e sentir parlare di ma siamo sul mercato. Segno dei tempi che sono cambiati, ma qualcuno forse non se ne accorge o fa finta di non accorgersene, con un distacco un po' netto da quello che è il cosiddetto paese reale. Guardate per esempio Wanda Marra, pagina 2 del Fatto Quotidiano: il super stipendio è meritato, mi affanno a smaltire le ferie. Ecco alcune delle scuse trovate. Per esempio Francesco Pionati, che parla solo per SMS, fa sapere il Fatto: io lavoro sempre comunque, il problema semmai è il ruolo, sono un'auto da corsa e tentano di farmi fare la canoa. Questa è la risposta di Pionati. Oppure c'è Anna La Rosa, 240.000 euro e dopo la chiusura di telecamere e telecamere salute è praticamente senza incarico, ma coi 240.000 euro fa sapere ho smaltito un anno di ferie e ho seguito la campagna di Hillary Clinton scrivendo per giornali scientifici. Tutto a spese di Mamma Rai, che poi sono soldi nostri col canone, appunto, ma non solo, comunque TV pubblica. La situazione politica è però quella che vede segnare un gelo tra il Premier e Viale Mazzini. Maria Teresa Meli, in retroscena, pagina 13 del Corriere della Sera, raccontano di un Matteo Renzi furioso per la piega che sta prendendo la vicenda della Rai. Dice ai suoi collaboratori: intanto la norma che prevede di mettere tutto online è nostra, non di Brunetta e non del 5 Stelle. E poi però è arrabbiato dicendo: ma non si rendono conto che così la gente si incavola con noi? Al presidente poi non sono piaciute alcune delle nomine di Campo Dall'Orto, veramente bellissime, ironizzava il premier con un paio di collaboratori. Mal sopporta per esempio le nomine di vertici della RAI che hanno dato consulenze e stipendi così alti anche in casi in cui non si capisce bene quale sia la competenza in materia televisiva, anche se non si fanno nomi. E poi soprattutto Renzi è arrabbiato perché, fa sapere il Corriere della Sera, aveva auspicato una rifondazione del servizio pubblico, ma questi non la stanno ancora facendo. Insomma, avevo parlato di una nuova RAI e ora Renzi scalpita perché non vede profilarsi questo progetto all'orizzonte. Secondo il Fatto Quotidiano, addirittura Campo Dall'Orto viene dato, come dire, in rottura, soprattutto con i collaboratori come Luca Lotti, molto vicino al Premier. Vabbè, questa storia della RAI, forse ha ragione Carlo Fraccero quando dice: non si rendono conto che hanno buttato una tanica di benzina in mezzo a un incendio. Staremo a vedere come procede. Intanto vi voglio segnalare alcuni articoli che mi hanno stuzzicato, come questo su Libero. Alessia Pedrielli racconta: spaccato d'Italia, il racconto del museo del Palazzo Reale di Genova, la cui direttrice Serena Bertolucci, 48 anni, ha detto: sono stata costretta nel weekend scorso per improvvise malattie, 5 operatori su 7 hanno dato forfè, a strappare anche i biglietti pur di tenere aperto il museo. Ed eccolo qui al museo, tutti malati, la direttrice apre da sola. Nel weekend 5 operatori su 7 danno forfè, la dirigente rientra e si mette alla biglietteria, poi fa anche da guida per i gruppi organizzati. Beh, davvero una soluzione da applausi, ma è la solita questione. Chissà come mai nel weekend questi dipendenti si sono messi in malattia. E il rischio è che anche il prossimo weekend si profili la stessa situazione. Ed eccolo dunque, i custodi in malattia e lei si trasforma in tuttofare. Biglietti, guida per le comitive al museo e a lei. Un po' quello che ha fatto, però in maniera un po' diversa, l'assessore di Roma, l'assessore Muraro, assessore all'ambiente, in quota ovviamente Movimento 5 Stelle, che ha fatto? Ha fatto il blitz dell'assessora, l'ispezione in diretta Facebook. Sapete che il Movimento 5 Stelle era tutto in streaming, allora hanno fatto questo blitz. È andata lì, ha bussato senza annunciarsi, dicendo: pronto, sono l'assessore Muraro, aprite. E ha iniziato a strigliare i vertici dell'azienda di cui è stata consulente per anni. Racconta Repubblica. Basta sacchi di spazzatura in strada, potrebbero nascondere una bomba. Peraltro ha detto anche questo Giovanna Vitale, pagina 15 di Repubblica. Non ci muoviamo da qui finché non abbiamo un documento operativo di rientro alla normalità. Si è trasformato dunque in un processo pubblico ai vertici dell'AMA, trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del 5 Stelle a Roma. Il blitz condotto ieri dall'assessore all'ambiente Paola Muraro per chieder conto dello stato di emergenza in cui versa la capitale. Il Messaggero è sicuro a dire in prima pagina: a questo punto saltano i vertici dell'AMA, salta il presidente Fortini, che avevamo avuto ospite la scorsa settimana. Eccolo qua, Mauro Evangelisti, il vertice dell'AMA salta, il presidente se ne va mentre il Campidoglio insiste per portare più rifiuti negli impianti di Cerroni. Tutto questo mentre la capitale è coperta dai rifiuti. E ogni giorno 180 camion partono da Roma per portare rifiuti in altre regioni. Tra l'altro, infatti, Repubblica, insieme a questo blitz sui rifiuti dell'assessore Muraro, racconta proprio il viaggio dei rifiuti con Paolo Griseri in prima pagina e poi continua pagina 14. I rifiuti in viaggio anche a Napoli vanno in Olanda da tempo, non si sa bene a quale prezzo. Molti gridarono al successo per 100 euro a tonnellata come indiscrezioni, il tutto in un contratto da 25 milioni di euro tra l'amministrazione comunale napoletana e la società olandese, ma non solo da Napoli, anche appunto da Roma. In genere il sud esporta spazzatura e il nord inteso come nord Italia, ma nord Europa, ci guadagna negli impianti triturando la spazzatura del sud. Va bene, siamo all'articolo da Mani sul Volante, l'articolo che mi fa pinzare della giornata. Ed eccoci qui. Siamo a Reggio Calabria, come racconta Sergio Rizzo, a pagina 21 del Corriere della Sera, dove la provincia sta per scomparire con lentezza. Insomma, siamo nella 169esima settimana decisiva di questa legislatura per l'abolizione delle province. Ed eccola qua. Compare una lapide alla provincia di Reggio Calabria. Una lapide per celebrare la provincia defunta. I consiglieri fanno affiggere una targa coi loro nomi. Provincia di Reggio Calabria, ultimi rappresentanti eletti direttamente dal popolo. E segue l'elenco: presidente Giuseppe Raffa, presidenza del consiglio provinciale, tutti i presidenti. Reggio Calabria, lì 14 giugno 2011, le ultime elezioni. La provincia defunta e l'affissione della targa coi loro nomi. Ah, Sergio Rizzo fa sapere, uno di loro è indagato, peraltro, ma va bene, è indagato, siamo garantisti. Ma eccola qua, la provincia scompare e loro si fanno la lapide per la provincia defunta. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, aiuto! Non ti devo dire che dialetto sono, sono sardo sono. E va bene, sei capito abbastanza, caro ascoltatore. Viva la Sardegna. Allora, siamo in Germania, dove di fatto l'ISIS è comparsa in maniera brutale con questo video di rivendicazione che è stato trovato dopo l'esplosione ad Ansbach di Mohammed Delel, profugo, che si è fatto esplodere domenica sera. E è stato trovato questo video nel telefonino di giuramento all'ISIS, giuro fedeltà all'ISIS. Anche qui però la vicenda è tutta molto contorta, perché come racconta Giusy Fasano a pagina 2 del Corriere della Sera, la guerra va bene, sempre la guerra. Il siriano Mohammed Delel non parlava d'altro, Aleppo, le bombe, le ferite, le donne, i bambini che muoiono. Quel suo essere sintonizzato sempre sull'argomento Siria, qui ad Ansbach gli era valso il soprannome di Rambo, anche se chi l'ha conosciuto giura che non ne avesse né i modi né il fisico. Conosceva tutti, ma non aveva veri amici, parlava con disprezzo degli islamici poco osservanti, ma poi beveva alcol e usava droga. Voleva lo status di rifugiato in Germania, ma l'aveva chiesto anche in Bulgaria. Non perdeva occasione per ripetere che quelli non mi rappresentano, io non sono così, non farei mai una cosa del genere. Alla fine invece l'ha proprio fatta, è diventato kamikaze nel nome dell'ISIS. Era lui l'uomo dallo zainetto enorme che i testimoni hanno visto agitarsi prima dello scoppio. Lui l'unica vittima di questa storia dai contorni ancora oscuri. E poi si racconta appunto di una radicalizzazione, evidentemente anche di un contatto telefonico, perché una testimone dice, dopo che non l'hanno fatto entrare, voleva entrare vicino a un concerto per fare forse più vittime, ha iniziato a passeggiare nervosissimo avanti e indietro davanti al pub dove ha colpito. Faceva finta di ascoltare la musica, ma parlava al telefonino. Ecco, la domanda è con chi parlava al telefonino. Poi si è fatto saltare in aria e ci sono lui morto sul colpo e 15 feriti, quelli che erano davanti alla Windstube, 4 dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Ovviamente la Germania si è svegliata con questo terrore ennesimo dopo l'attentato di Monaco, e ora ci si chiede che cosa stia succedendo. Vi segnalo per esempio La Stampa, Giordano Stabile da Beirut, il ricatto del califfo ai rifugiati siriani. È una lettura molto interessante di quello che potrebbe accadere nei prossimi tempi e quello che è accaduto negli ultimi tempi. La minaccia sarebbe questa: siete scappati, ora uccidete gli infedeli. La propaganda di al-Baghdadi, per innescare i lupi solitari, i cosiddetti lupi solitari, passa anche attraverso questo. La campagna degli islamisti ha come obiettivo quello di fermare in qualche modo i raid, ma in Germania vuole amplificare un'altra paura. Mohammed Delel, rifugiato di 27 anni, specifica di aver risposto all'appello del califfo e di aver agito senza chiedere il permesso, segno che la propaganda è penetrata fino nei dettagli della mente di una persona senz'altro fragile, ma non per questo meno pericolosa. Forse Delel ha reagito a un'altra propaganda che corre sul canale Telegram e sono continui attacchi ai rifugiati siriani accusati di vigliaccheria, tradimento, apostasia. La loro colpa è quella di essere fuggiti dal califfato invece di difenderlo con le armi, di aver trovato accoglienza in un paese di infedeli. Un predicatore vicino all'ISIS li ha minacciati in un video e ha ingiunto loro di versare una tangente di almeno $20,000 all'anno se non tornano in patria. Ecco che quindi il timore è questo, che alcune persone potrebbero quasi per disperazione dire, visto che vengono minacciati avendo abbandonato la Siria e il califfato, di fare questo gesto, chissà perché anche sotto ricatto, perché spinti a farlo, perché si sentono in dovere in qualche modo di farlo. Insomma, è una guerra anche psicologica molto molto oscura per noi che siamo abituati alla libertà, che ci siamo conquistati e che dobbiamo difendere. Di fronte invece a queste tipologie di menti che sono sicuramente deviate o che vengono spinte a fare questi gesti per noi incomprensibili. Ecco qui per esempio anche l'altra critica, è ovviamente quella politica nei confronti di Angela Merkel. La sua politica delle porte aperte comincia evidentemente a scricchiolare. anche se il ministro dell'interno tedesco dice a Berlino: non possiamo dare la colpa ai profughi. Davide Casati, leggo da pagina 5 del Corriere della Sera: il primo segnale dell'onda di piena che stava per abbattersi sul governo Merkel è arrivato alle 4 di mattina. È stato allora che Joachim Herrmann, ministro dell'interno della Baviera, ha tracciato una linea che collegava due punti fino a quel momento, che fino a quel momento il governo federale aveva tenuto separati: il tema dei profughi e quello del terrorismo. È un oltraggio, ha detto Herrmann, che si abusi della protezione garantita ai richiedenti asilo. Chi cerca protezione in Germania deve avere rispetto totale per le leggi e il popolo tedeschi. Insomma, il collegamento era fatto e Angela Merkel, attraverso la portavoce, ha detto di essere sconvolta per i due attacchi di domenica, ma ha tenuto con forza a sottolineare come vada evitata la generalizzazione. La maggior parte dei terroristi che hanno compiuto attentati non erano rifugiati, ha detto attraverso il portavoce. Ma certo, il tema c'è, il tema è ben sul tavolo. La Merkel finisce sotto accusa anche per il Messaggero a pagina 3: che errore invitare i profughi, critiche alla cancelliera da destra a sinistra. Insomma, i tempi dello slogan "ce la facciamo" sono lontani. Tra l'altro, a proposito di profughi, guardate questa pagina del Giornale, pagina 9, Serenella Bettin da Padova: altro che fuga dalla guerra, il 97% sono finti rifugiati, questo almeno secondo una commissione che ha esaminato le domande presentate a Padova. 3.600 richieste, la commissione prefettizia ne ha ritenute idonee solo 100. 100 su 3.600. Il 97% di queste domande dunque respinte. E questa è la commissione che si è insediata il 16 marzo 2015. Fino a questo momento solo 108, per la verità nell'articolo diventa 108, sono state ritenute idonee per ottenere il diritto all'asilo. Solo una minima parte dei richiedenti ha diritto all'aiuto. Ovviamente però il percorso è lungo e non è escluso che di tutte queste 3.600 richieste non siano state esaminate tutte. Evidentemente potrebbe essere anche in questa chiave la spiegazione di questa cifra molto, molto bassa. In ogni caso, che l'Italia sia finita nel panico lo testimonia anche l'allarme bomba ieri alla stazione centrale di Milano, un finto ordigno, l'aeroporto di Fiumicino per una panda, a Ventimiglia un allarme bomba. Insomma, al ritmo di 3 allarmi bomba in un giorno, il rischio, almeno questa giornata di ieri, il rischio è che ci si debba abituare a un mondo anche così sempre sull'allerta. Avete sentito, anche l'assessore ai rifiuti di Roma è andata all'AMA a dire: togliete i rifiuti dalla strada, anche perché in questi tempi potrebbero essere un buon rifugio se uno vuole lasciare una bomba abbandonata. E purtroppo questa è la situazione. Va bene, dai, lasciamo un attimo questi temi così brutti per arrivare alla politica. La politica fa registrare 2 notizie principali, vale a dire: la prima riguarda Stefano Parisi. Dunque c'è una sorta di investitura da parte di Silvio Berlusconi, che l'ha riconvocato ad Arcore, il sì di Parisi, che è stato nominato di fatto coordinatore o organizzatore di Forza Italia. Marco Cremonesi e Simona Ravizza dedicano una pagina a questo, a pagina 15 del Corriere della Sera. Quanto è stato concordato ieri durante una cena ad Arcore tra l'ex candidato sindaco e Silvio Berlusconi è proprio questo ruolo. Parisi dovrà traghettare il partito verso un congresso che si svolgerà alla fine dell'anno. L'obiettivo è la nascita di un soggetto politico capace di dare una casa il più possibile unitaria ai pezzi oggi dispersi del centrodestra. Il primo compito: calmare gli animi dei dissidenti di Forza Italia. Ieri sera sono stati indicati in Giovanni Toti, Paolo Romani, Altero Matteoli, Maurizio Gasparri. E anche evitando, richiesta esplicita di Berlusconi, inutili interviste. Così Silvio Berlusconi ha detto e ha indicato la linea a Stefano Parisi. Vedremo quale sarà la sua strategia. Avrà subito un ruolo in Forza Italia. Comunque questo è il punto principale. L'altro tema politico, e di politico non ha niente per la verità, è la polemica nei confronti di Matteo Salvini, che In un comizio della Lega si è presentato sul palco e dietro di lui c'era una bambola gonfiabile e lui ha detto ai rappresentanti della Lega che erano lì: abbiamo qui sul palco una sosia di Laura Boldrini, insomma la presidente della Camera paragonata a una bambola gonfiabile. Offese a Boldrini, Salvini nella bufera, è il titolo di pagina 14 del Corriere della Sera. In un comizio paragona la presidente della Camera a una bambola gonfiabile. La Boldrini risponde: non ha argomenti. Accuse di sessismo che arrivano un po' da tutte le parti piovono sul capo di Salvini, che poi dice a Sky TG24: non chiedo scusa alla Boldrini, lei dovrebbe chiedere scusa agli italiani, è la prima razzista nei confronti degli italiani. Insomma, la polemica è servita. Boldrini, bambola gonfiabile, la bufera per la gaffe di Salvini. Questo è il titolo di pagina 7 del Messaggero. Insomma, una cretinata che diventa argomento politico del giorno. L'economia, le banche, gli stress test che fanno meno paura a Piazza Affari. Allora, ovviamente vi consiglio la lettura del Sole 24 Ore perché ci sono tutte le tematiche su quello che può succedere al Monte Paschi Siena. Venerdì arrivano gli stress test per le banche più grandi europee, tra queste anche alcune banche italiane. I risultati sono già stati anticipati ai vari governi. Secondo indiscrezioni ieri della stampa, Monte Paschi non passerà lo stress test, verrà bocciato. Comunque, Gianni Trovati racconta a pagina 2 la questione bancaria. Pagina 2 del Sole: il passo in avanti nella raccolta di capitali di Atlante realizzato ieri con l'impegno annunciato dalle casse professionali di partecipare all'impresa concentra ulteriormente l'attenzione sulla soluzione di mercato per il Monte Paschi. Il possibile ruolo pubblico nel successivo aumento di capitale, al momento tra Palazzo Chigi e Ministero dell'Economia, non vede alcuna soluzione eliminata a priori. Ieri c'è stato un nuovo incontro tra il Premier Renzi e il Ministro Padoan per ripassare in rassegna il ventaglio delle soluzioni possibili. Quali sono la doppia mossa di mercato sull'acquisto dei crediti deteriorati e il successivo aumento di capitale? Rimane naturalmente la prima scelta del governo, che però deve mettere in conto anche la possibile necessità di un intervento pubblico straordinario e anche l'eventuale esigenza di contrastare un effetto bail-in. L'effetto bail-in per il momento rimane escluso, ha ricordato il ministro dell'economia Padoan dal G20 in Cina, ma in prospettiva tutto dipende da quanta strada riuscirà a percorrere il mercato, soprattutto in caso di mancata sospensione del burden sharing a carico degli investitori istituzionali. Una mossa ex post del governo rischia di rivelarsi particolarmente complicata. Ovviamente tutte le strategie di quello che potrebbe succedere su Monte Paschi le trovate sul Sole 24 Ore. Venerdì è certamente una giornata importante, vorrei dire decisiva, ma sì, lo dico anche, con gli stress test, i risultati, e staremo a vedere. Intanto in Italia si discute nel Parlamento di legalizzazione della marijuana, di droga, insomma ci sono... Altri temi? Sì, l'America, gli Stati Uniti, la convention. Tra poco, Tutto ciò premesso, traffico! Alessandro mio, alla catanzerese, Alessandro mio, che vama te dico, che vama te dico io. Quando lei è giornale, Alessandro mio, a me ti ricordi, con l'occhio te veo io e con l'altro te coglioneo. Allora... Altra notizia importante dalla finanza è questa, cari ascoltatori, la trovate in prima pagina del Sole 24 Ore, è la holding della famiglia Agnelli lascia l'Italia, è trasferita in Olanda, Exor lascia l'Italia, la famiglia Agnelli con Exor, Giovanni Agnelli e C. Sapaz, cassaforte della famiglia detentrice del 52,99% della finanziaria, trasferiscono la sede in Olanda. L'unico scrigno societario che resterà nei confini nazionali è la Dicembre, che controlla la commandita e fa capo agli eredi di Gianni Agnelli, partendo dal presidente John Elkann. Questa è la notizia in sintesi. L'obiettivo, dice Elkann, è creare una struttura societaria più semplice. Exor lascia l'Italia, la sede è trasferita in Olanda e ci sono tutti i dettagli poi a pagina 7 del Sole 24 Ore. Per quel che riguarda invece il Parlamento italiano, ci sono appunto i commenti e i titoli di prima pagina dei giornali riguardanti la legalizzazione della marijuana. È la proposta che è sbarcata in Parlamento, per la verità tra mille polemiche è stata di fatto fatta slittare a ottobre, perché ci sono tanti emendamenti, appunto 1700. Certo, come ho detto alle 6.30 in apertura, facendo sentire anche qualche audio, il dibattito, come racconta Gianluca Roselli a pagina 7 del Fatto Quotidiano, in un'aula di Montecitorio semivuota peraltro, il dibattito è un po' surreale, perché è un tema serio, un tema importante, un tema su cui si può discutere, si può avere opinioni diverse, e questo è il sale della democrazia, trattato con... Così i bambini sono in pericolo, questo è un favore all'ISIS, così si dà il sì ai coca party. Cioè argomenti veramente da slogan abbastanza beceri. E beh, tutto si è sentito in Parlamento, anche queste cose. Tanto che il Fatto Quotidiano si chiede, visto che la moda del momento è i Pokémon, nessuno ha tirato in ballo i Pokémon in questo dibattito. Sta di fatto che però ci sono delle posizioni che vi voglio segnalare. Intanto vi segnalo un paio di interviste del ministro della salute Beatrice Lorenzin, rilascia una ad Avvenire e una Repubblica. Parla con Repubblica il ministro della salute Michele Bocci, dice: la cannabis è una droga e fa male e quindi sono contraria. Siamo pieni di studi scientifici che dopo anni di consumo di massa ne sanciscono la pericolosità per la salute. Non lo dico io, ma scienziati, neurologi, psicologi, farmacologi. Tra i suoi effetti collaterali ci sono l'alterazione dell'umore, l'insonnia, la tachicardia, l'ansia, la sindrome amotivazionale, la dipendenza complessa. E soprattutto da anni i consumatori sono ragazzini, il nuovo mercato sono i bambini di 10, 11, 12 anni. Certo, l'obiezione non si può legalizzare perché fa male è un'obiezione un po' debole, tanto che a un certo punto Michele Bocci chiede: mi scusi, allora anche l'alcol fa male, eppure è legale, il tabacco, bisognerebbe vietare pure la birra. È una provocazione inutile, risponde a Lorenzin, che non tiene conto della serietà di cui si dovrebbe affrontare una piaga per i giovani. Tra i ragazzi c'è un problema alcol e droga, e mi chiedo: dove vivete? Non vedete cosa accade in città? Non c'entra col consumo durante i pasti e moderato di vino e birra, che fa parte della nostra cultura da millenni. Mi preoccupo per i minori e per loro l'alcol è vietato. Insomma, e alla domanda: e il gioco d'azzardo, anche quello non fa bene? Il nostro non è uno stato etico, evidentemente, ma questo non significa che non si debba fare una lotta vera contro i comportamenti devianti. Insomma, non è etico per il gioco d'azzardo, però è etico per dire che la marijuana fa male e quindi non va legalizzata. In ogni caso, Benedetto Della Vedova, che è sottosegretario al governo, ma ci tiene a precisare, è una legge del Parlamento, il governo non c'entra, non impegna il governo, invece è uno di coloro che si batte per la legalizzazione, dice: bisogna legalizzarla per colpire le lobby criminali. E anche qui c'è un grande dibattito se questo colpisca le lobby criminali oppure no. Il procuratore Roberti, antiterrorismo e antimafia, dice di sì. Il procuratore di Catanzaro Gratteri gli ha risposto, ha detto: secondo me no. Della Vedova dice: il mercato criminale della cannabis vale miliardi. Se lo rendi legale generi un pezzo di economia, solo che i sovrapprofitti andranno allo Stato. In Colorado hanno costruito scuole così. Oggi c'è già una lobby ed è la lobby criminale. Questo Benedetto Della Vedova. L'appello, diciamo, che proviene da entrambi gli schieramenti, chi dice sì, chi dice no, sta di fatto che il testo viene rimandato a settembre, dunque potete stare tutti tranquilli. Per quel che riguarda invece gli Stati Uniti, vi segnalo l'apertura della convention democratica con Sanders che ha appoggiato la Clinton, l'agenda progressista della Clinton. Questo è il tema fondamentale, anche se la sua base lo contesta il senatore del Vermont. Mi sembra però una convention fino a questo momento un po' più in sordina rispetto a quella esplosiva e che ha fatto discutere di Donald Trump. Esplosiva anche la vacanza, attenzione, della principessa araba d'Alassio. Arriva quest'anno, a giorni, Pagina 17 della Stampa: arriva la principessa araba Nuf Nint Abdullah Al Saud della famiglia saudita. Suo marito è il figlio del defunto re Abdullah. Arriva ad Alassio e si è già fatta precedere da 30 domestici e 45 valigie. Tutti al Grand Hotel Alassio 5 Stelle sono sull'attenti per attendere e soddisfare ogni desiderio, ovviamente, della principessa saudita. Una pagina della Stampa. Oh, però sulla Stampa c'è quest'altro articolo sotto. Non so se avete visto il video. Siamo anche in diretta a Facebook in questo momento, sulla mia pagina pubblica. Non so se avete visto il video, io l'ho anche postato su Facebook, di questi, come definirli? Talebani, non ci sono altri termini. Questi talebani di questa associazione di animalisti che sono andati a disturbare una legale e legittima gara di pesca. Sono andati anche da un signore con un bambino che pescava con il suo figlio di 10 anni per dirgli: assassino, uccidi i pesci, li fai soffocare, assassino. Poi ha messo il video online. Ora il genitore, il pescatore, li ha denunciati. Ha fatto bene. Soprattutto perché hanno mostrato il volto di un minore, cosa vietatissima dalla legge, senza il consenso del genitore. Spero così che li dissangui finanziariamente con questa denuncia, li dissangui finanziariamente, colpirli così per questa cosa illegale che hanno fatto, pubblicare il volto di un minore senza il consenso del genitore. Colpirli così, questi talebani moderni. La Stampa ne parla: blitz degli animalisti sul fiume, assassino al bambino pescatore, poi messo alla gogna con la faccia senza l'autorizzazione del genitore. Male, denunciati. Bene, intanto sulla Gazzetta ci fanno sapere che Mancini, eccolo qua, l'allenatore dell'Inter, è sull'orlo di essere cacciato oppure se ne va, è in rottura. Via Mancini, via Icardi, chi lo sa, cari interisti. Ma eccole qua le regole da spiaggia, una pagina di Libero sulle regole da spiaggia: righe e tinte forti per il bikini, ma solo se lo consente il fisico, vietate le infradito. Indovinate un po' che premio vince oggi quest'articolo? Ma chi se ne frega!